tutti buona notte. Cosa c'è? Frenini! Mrs. Rance, fra poco, no, faccia l'incidente, mi rispende, non mi rispende, ragazzo, e mi schifferà, mi compagnisco, mi compagnisco, e sono i tempi, e sono se mai vede colpo, intende, e buon per te, ti rancuri le offese degli ubriachi, e capisco che, vieni, ti urla, urla, ti urla, urla, Buonasera, Bini. queste vanno in giro. È una pazzia tenerle qua dentro, ma l'agenzia starebbe molto meglio. Postiglione, conosci Germanina?

son messo in cammino. A tratto sol dal fascino dell'ora, e questo in solo te non m'hai ingannato. Giocare il vostro nome

guardare fino in fondo alle cose del mondo. Non so, non so. Thank you. che vi guardo, Minni. Davvero, ma che va? Thank you. non vorrò mai. Ci sono vizzo sa, quasi odiamante, quando fa troppo freddo, mi rannicchio in quella gente che ti ami. Perfetto Giansen di Sacramento è un bandito da strada. Oh, non è vero, lo so, non è vero. Vada di non fidarti troppo un'altra volta. Tu

accettai. Era quello il mio destino, ma un giorno m'ho incontrata, ho sognato d'andarmene con Oh, son Jack, son lo sceriffo a caccia del tuo Johnson d'inferno. Non seguito la traccia, deve esser qui dove. Oh, avete seccato con questo vostro Ramirez? Ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. E cercatelo dunque, rovistate, dove gli pare, e poi ti vado di Oh, accetto, sì, avrò. Soperbere come un signore, ma per Dio son tutto nella sede di te. Orso il distrutto, ma se vinto t'avrò. Aspettate un momento. Che aspetti? Cerco un uomo. Pronto, taglia, a te. Due mani sopra tre. Quante? Due. E a che tu la adori. Sei un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Che t'avrò fra le mie braccia. Vede, vedi, ti vinco. Presto giù, per pietà. Ma che cosa stai? Che devo darvi? No. È la mattia. Vedo, ma gli chiedi dov'è. Presto giù, che non chiede per pietà.

necessario troppo le dobbiamo. E tu, io credo, poi resigna a me. E dici anche tu, non scrivi, non scrivi. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。